cosa ne sanno gli altri di quello che sei tu? Come faremo a trovarci se non sogni mai me? Sarebbe bello comprarti qualcosa e disegnarti sui muri di scuola e caderti dentro, me l'ha detto Vasco, siamo solo noi. Questo giardino sembra la savana, io toro e tu scorpione. Il cielo parla e noi muti che perdiamo tempo e non salviamo il mondo. Sei la ragione per rimanere, per andare via. Aspetteremo un po' prima di partire e prenderemo un treno fino alla fine. Dove sei, dove sei, dove sei quando rimani sola? Cosa fai, cosa fai, cosa fai se parli troppo e poi hai mal di gola? Se parli troppo e poi hai mal di gola. Ma dove sono gli altri quando non ci sei tu? Come faremo a svegliarci se una festa non finisce più? La mia vita sembra la Siberia senza il tuo maglione. La gente fredda e noi nudi, abbiamo ancora tempo per salvare il mondo. Sei la ragione per rimanere, per andare via. Aspetteremo un po' prima di partire e prenderemo un treno fino alla fine. Dove sei, dove sei, dove sei quando rimani sola? Cosa fai, cosa fai, cosa fai se parli troppo e poi hai mal di gola? Se parli troppo e poi hai mal di gola. Se parli troppo e poi hai mal di gola. E rimaniamo per ore a parlare dei tuoi viaggi, delle cene a casa e poi di quella notte che ti sei ubriacata. Ma dove sei? Che cosa fai quando rimani sola?